sono Enrico Ruggeri e ogni giorno vi racconterò la storia di chi ha saputo mettere nella propria vita un colpo d'ala. Traiettorie ardite, eccezionali, che sapranno sorprenderci e magari anche aiutarci a volare. Il Falco e il Gabbiano, da lunedì a venerdì alle 15.30, solo su Radio 24. Versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori, questo martedì 10 di febbraio, sono le 16.30 primi 49 secondi e Oscar Giannino vi saluta e va subito all'argomento della puntata per darvi la possibilità, mentre spieghiamo poi un pochino di che si tratta, di decidere se intervenire all'800240024 e di mandarci naturalmente come sempre i vostri commenti al 349-238-6666 e di segnalarci temi. Anche la puntata di oggi viene da una nostra ascoltatrice che ci ha chiesto di parlare di questo argomento. Di che cosa parliamo oggi? Sempre avendo in mente la legge sulla concorrenza, quindi le liberalizzazioni che il governo esaminerà in Consiglio dei Ministri il 20 di febbraio. Ieri abbiamo esaminato la faccenda delicata dei farmaci di fascia C nella grande distribuzione e nelle parafarmacie e naturalmente dovrò ospitare anche poi la voce dei farmacisti per il controcanto. Oggi ci spostiamo su un'altra questione, la questione che riguarda i libri, quindi consumo culturale. Di che cosa si tratta? Si tratta della possibilità, vedremo anche qui se poi nel testo della legge portato dal ministro Guidi sarà confermata l'anticipazione, se davvero il governo interverrà modificando una legge, si chiama legge Levi, la legge Levi che fu introdotta nel 2011 e fu introdotta nel 2011 ponendo per legge, scusatemi, un tetto allo sconto applicabile ai libri. Il limite massimo dello sconto per legge, secondo la legge Levi che vige dal 2011, cioè il sconto per i libri, è quello del 15%. Si tratterebbe di abrogarlo. Allora, direte voi, non capiamo quale sia l'influenza di questa norma sul consumo dei libri. Retroterra di quella legge. Quella legge nacque 4 anni fa per una vivissima protesta dei piccoli librai che in nome della cosiddetta bibliodiversità, è un termine che a me non piace molto, cioè invocando una misura di tutela nei confronti delle 4 grandi catene di produttori e distributori librari del nostro paese. Noi abbiamo 4 gruppi editoriali, cioè Mondadori, Rizzoli, Feltrinelli, GEMS, che hanno la filiera verticale integrata, producono libri, li promuovono, li distribuiscono in propri punti vendita. E c'è una protesta da anni dei piccoli librai italiani che dicono le condizioni di ottimizzazione del margine che la loro integrazione verticale consente ci mette fuori dal mercato, ci obbliga a chiudere. La legge Levi nasceva, cioè il limite agli sconti ai libri, con l'idea di tutelare meglio le piccole librerie, quindi come se fosse una specie di commercio di prossimità nella distribuzione degli alimentari. Fatto sta che il risultato di questa legge a me pare andare nella direzione, dopo 4 anni, totalmente opposta. Prima questione: lo Stato fa bene a abolire il limite massimo del 15% di sconto applicabile ai libri? Seconda questione: sapete che dal gennaio di quest'anno il ministro dei beni e attività culturali Dario Franceschini ha abbassato l'IVA sugli ebook e l'ha portata dal da una doppia cifra, oltre il 20%, al 4% come quella dei libri ordinari, dicendo facciamo un passo avanti, ci omologhiamo alla Francia, ecco come il governo Renzi incentiva i consumi librari. Se non che anche qui abbiamo scoperto che lo Stato dice una cosa ma l'effetto è un altro. Questa è naturalmente la mia modestissima opinione, perché come all'inizio di gennaio in realtà si abbassava, diamone atto al ministro Franceschini e al governo, attraverso questa norma posta in legge di stabilità, l'IVA sugli ebook, però il prezzo finale, come potete verificare andando su Kobo, andando su Amazon, su qualunque grande piattaforma di vendita degli ebook, è rimasto tale quale. E perché è rimasto tale quale? Perché contemporaneamente variava la norma dell'IVA da pagare su queste grandi piattaforme, cioè entrava in vigore una norma per la quale, se comprate un libro da Amazon, mentre fino a dicembre pagavate l'aliquota IVA che corrispondeva a dove Amazon in Europa aveva il centro di distribuzione, cioè Lussemburgo, IVA 3%, dall'inizio dell'anno si paga l'IVA sul paese di residenza di chi compra il bene o il servizio online, e quindi si torna con l'IVA a doppia cifra. Da una parte lo Stato ci ha detto quindi che abbassava l'IVA sugli ebook, dall'altra la somma totale dell'IVA non solo non diminuisce, ma in realtà aumenta di qualche punto, come si vede dal fatto che da gennaio in moltissimi casi il prezzo degli ebook è aumentato, o nel migliore dei casi è rimasto uguale, ma non è mai sceso. Allora, partiamo da questo aspetto. Trovate oggi su Repubblica, pagina 43, il bilancio della fuga dei lettori italiani dai libri, cioè nel 2014 abbiamo perso altri 820.000 lettori, perché secondo le cifre che ha dichiarato ieri l'Associazione Editori Italiani, noi abbiamo solo a leggere un libro l'anno almeno solo il 41,4% degli italiani, nel senso che più del 50%, più della metà non legge neanche un libro. Crollano i lettori deboli, procede l'indagine rilasciata ieri, i lettori deboli, cioè quelli che leggono tra uno e tre libri l'anno, e sono diminuiti nel 2014 del 6,6%, ma calano anche i lettori forti, sono calati anche loro di mezzo punto. Leggono meno le donne, che leggono più degli uomini nel nostro paese, e sono diminuite dell'11,8% anche loro nel 2014 sul 2013. Sì, il nord continua a leggere un pochino più del sud, ma perde il 4%. Si salvano sul totale degli italiani solo i ragazzi, metà dei quali, quindi un pochino più del 41,4% del totale degli italiani, almeno il 50% dei ragazzi, almeno fino a 18 anni, legge almeno un libro all'anno. Allora, siccome siamo così indietro e continuiamo a precipitare nella graduatoria dei consumi librari e della lettura, quindi in un aspetto fondamentale della formazione del cosiddetto capitale umano, la domanda che ci facciamo oggi è: ma lo Stato, con le sue manovre fiscali, che da una parte dichiara di abbassare su una parte dei libri, quelli elettronici, e dall'altra però aumenta e quindi l'IVA totale rimane invariata e anzi cresce, e dall'altra con la norma Levi, ispirata a criteri per così dire di tutela culturale delle catene distributive, dei piccoli distributori, dei piccoli librai, ponendo però limiti agli sconti applicabili ai libri, non è che lo Stato dichiara di perseguire il grande fine etico della promozione culturale, ma ottiene in effetti l'esatto opposto come risultato? Ecco, siate voi lettori di libri e quindi diteci se costano troppo secondo voi, ed è questo ciò che vi frena, o seppure semplicemente vi annoiate. Siate voi lettori o non lettori di libri cartacei o ebook, e pure, soprattutto, se siete affezionati alle piccole librerie o alle grandi librerie, ecco, questo è il giorno per chiamare e dire se secondo voi è giusto abolirla questa norma sul limite massimo degli sconti applicabili ai libri, oppure se invece voi pensate che lo Stato debba fare di più in maniera ancora intromissiva nella regolazione dei prezzi di questo bene, ohimè, di così scarso consumo che sono i libri nel nostro paese. Per parlarne abbiamo ospiti che portano opinioni ed esperienze diverse, in attesa delle vostre telefonate all'800 24 00 24. È con noi il vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, Serena Sileoni, grazie, buon pomeriggio Serena. Buon pomeriggio. E il presidente del Sindacato Italiano Librai, Cristina Giussani, buon pomeriggio presidente. Buon pomeriggio a voi, grazie. Comincerei da lei, Giussani. Il bilancio della legge Levi da una parte e dall'altra di questa doppia manovra IVA, da una parte si abbassa e dall'altra, a quali condizioni, a quali considerazioni vi induce come Librai e quale attesa avete dell'intervento del governo per il prossimo 20 febbraio? Intanto la ringrazio perché, come al solito, la sua premessa è stata chiarissima e quindi la ringrazio, perché ci vuole anche, bisogna anche saper spiegare bene a tutti come funzionano le cose. Lei lo ha fatto secondo me in maniera perfetta. Le dico solo un dato per cominciare: in Germania, dove esiste una legge analoga alla Levi da 30 anni, dove lo sconto è 0%, non si può far sconto sui libri, legge l'84% dei tedeschi almeno un libro all'anno. In Francia, dove lo sconto è 5% dall'81, legge il 75% dei francesi almeno un libro all'anno. Questo ci fa dire che il problema in Italia non è il prezzo o lo sconto, ma è una politica della lettura che manca da troppo tempo. Cioè, il problema è vero che noi facciamo una battaglia per preservare le piccole librerie, aggiungerei indipendenti, non solo piccole ma anche indipendenti, dove il libraio sceglie liberamente quello che può esporre, quello che può proporre ai suoi clienti, ed è lì forse l'aspetto importante culturale, no? Questa libertà di scelta. Aspetta, siccome citiamo di nuovo questa cosa dei piccoli librai, spieghiamo a chi non è addetto ai lavori, sì. Non è tenuto a sapere che il motivo per il quale abbiamo introdotto nella legislazione il tetto agli sconti deriva dal fatto, come è evidente ed è intuitivo anche a chi non è addetto ai lavori e ci sta ascoltando, che il piccolo libraio non ha accesso a un prezzo commerciale rispetto al produttore del libro uguale a quello del produttore grande distributore, e quindi, come è evidente, il produttore che è direttamente distributore e proprietario del punto di vendita ha dei margini di sconto senza perdere il margine di utile che il piccolo libraio non ha. Chiusa parentesi. Consideri che il piccolo libraio indipendente, piccolo, grande, ma indipendente, compra il libro con uno sconto che è mediamente il 30% del prezzo di copertina, quindi già questo 15 è molto elevato per noi. Il libraio, che è anche editore, può fare lo sconto del 25 ai suoi clienti e lo fa uguale a me, cioè la concorrenza non esiste, no? E questo fa chiudere le piccole o grandi librerie indipendenti. Io sono fermamente convinta che il problema in Italia, intanto l'abbassamento della lettura è dovuto anche alla crisi economica, perché in una crisi economica come quella che abbiamo adesso, uno dove risparmia? Sui beni non indispensabili, è normale. Però quello che noi, su cui noi stiamo lavorando col Ministero, in collaborazione con le biblioteche, eccetera, eccetera, è una promozione della lettura a 360 gradi, perché quando io dico che negli altri paesi si legge, non dico che si comprano necessariamente tutti i libri che si leggono, magari si frequentano le biblioteche. Quindi da noi in Italia manca di fondo una politica seria e costruttiva sulla promozione della lettura, dalle scuole, alle biblioteche, ai musei, ai bookshop, tutta una serie di attività che si possono fare in collegamento fra i vari attori per promuovere la lettura. Gli ebook, anche noi, tra l'altro noi come librai del nostro sindacato, possiamo anche vendere gli ebook in libreria. La prima cosa che mi sono chiesta è come mai non si sono abbassati i prezzi degli ebook. Allora, la spiegazione lei l'ha data. Il lettore medio, secondo me, ha una spiegazione che può accettare o non accettare. Resta il fatto che l'ebook in Italia è ancora una piccola percentuale della lettura. In crescita, potente ma piccola. Certo. In crescita ma piccola. Per cui ritorniamo al punto di base. Dobbiamo promuovere la lettura, dopodiché salviamo le librerie, discutiamo sull'IVA degli ebook, eccetera. Ma se non si legge in Italia non serve fare tanti altri discorsi. La libreria indipendente, sì, certo, è il negozio di vicinato, però è anche quella che è nella piccola città, nel quartiere di periferia, e quindi c'è questa democrazia culturale e geografica che secondo noi va preservata, ma per il consumatore. che secondo me poi non è la stessa cosa andare a comprare un libro dove c'è un libraio che ti consiglia, che ti conosce, che chiacchiera con te, che ti fa incontrare l'autore, perché noi come librai indipendenti facciamo anche questo movimento culturale, no? Gli incontri con gli autori, eccetera, eccetera. Secondo me è una cosa diversa rispetto ad andare in un centro commerciale, in una grande libreria dove magari non sei così seguito. Fa parte di quel tipo di rapporto umano che si crea, che è anche un rapporto culturale. Ok, quindi insomma lei dice più che aspettarsi interventi del governo è la promozione che manca. Allora sentiamo intanto, le leggo alcuni messaggi dei nostri ascoltatori che dicono, per esempio, questo: mica sarà colpa dell'IVA o degli sconti se gli italiani non leggono, perché sono ignoranti, per così dire, insomma, sia pure espresso in maniera un po' rozza e tagliente dal nostro ascoltatore, è d'accordo con Cristina Giussani. Altri sostengono una tesi che naturalmente a me piace per natura, libero mercato anche per i libri, però avete visto che gli effetti degli interventi dello Stato per le tutele di area del mercato possono ottenere effetti esattamente opposti a quello che poi dovrebbe essere in termini di una sana, dico io, dottrina della concorrenza. Luca ci scrive: preferisco piccole librerie, trovo alti prezzi da nuove uscite, ovviamente più di quelli rinomati, mentre sui classici si trovano buonissime offerte. Moltissimi messaggi di voi, ne scelgo uno, quello di Nico Operaio, che dice: io in realtà devo aspettare di trovare i libri scontati, perché altrimenti l'unica alternativa per me è leggere ancor meno, molto meno di quanto vorrei. Adesso abbiamo 60 secondi di strada e poi torniamo per sentire l'opinione di Serena Sileoni e le vostre telefonate. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta alle 16:40, 6 primi 50 secondi. Siamo partiti da un dato: meno 820.000 lettori in Italia stimati persi nel 2014. Siamo scesi al 41,4% degli italiani che leggono almeno un libro l'anno. Va un po' meglio fino ai 18 anni, siamo a un ragazzo su due, ma per il resto tutti leggono meno. E ci stiamo ponendo il problema se sperare, io per esempio sono tra quelli, che il 20 febbraio nella legge sulla concorrenza ci sia un intervento che rivede criticamente il limite agli sconti sui libri posti con la legge Levi nel 2011, e abbiamo anche spiegato questa storia per la quale sia pur facendo scendere al 4% l'IVA sugli ebook, in realtà lo Stato con l'altra mano ha fatto salire l'IVA, perché è diventata l'IVA del paese nazionale dell'acquirente, cioè l'IVA italiana di chi compra su una piattaforma online, e non più come era fino al 31 dicembre l'IVA del paese dove era allocata la sede in Europa della piattaforma, dove l'IVA era, guarda caso, molto più bassa di quella italiana. Parentesi, poi dicono ci sono i paradisi fiscali, ma ci sono i paradisi fiscali perché c'è l'Italia che è l'inferno fiscale, questa è la mia opinione, chiusa parentesi. Allora sentiamo Serena Sileoni, invece il vice direttore generale dell'Istituto Bruno Leoni, se si aspetta un intervento come il governo ha anticipato, e perché se lo aspetta, e che conseguenze e che opinioni nutrire rispetto agli interventi dello Stato sulla politica di incentivo o disincentivo ai libri. Più che aspettarmelo, me lo auguro sinceramente. A suo tempo, quando la legge fu approvata prima della promulgazione, con l'Istituto Bruno Leoni facemmo una petizione al Presidente della Repubblica per non promulgarla, che fu fatta praticamente a Ferragosto, nonostante la data, ed è un successo di migliaia di firme, segno evidente che i consumatori, i lettori, erano un po' intimoriti da questa legge, che ha un solo effetto, quello di limitare la libertà del negoziante di venire incontro alle esigenze del lettore, e quindi di praticare gli sconti liberi. Quindi sicuramente la legge Levi è una legge che non ha avvantaggiato la lettura, anche se è nata con questa ufficiale bella intenzione, semplicemente perché appunto ha limitato la possibilità di fare sconti e di fare campagne promozionali. Se ha avvantaggiato qualcuno, di sicuro non ha avvantaggiato i piccoli, né librai né editori, perché è stato detto prima, i piccoli librai riescono ancora a mantenere la clientela con sistemi cosiddetti di fidelizzazione, che possono anche prescindere in realtà del prezzo di copertina, che riguardano anche una qualità di assistenza nelle scelte di lettura che magari le grandi catene non hanno. Quindi di sicuro la legge Levi non ha aiutato la lettura, al massimo ha diminuito l'acquisto di qualche libro, ma anche non l'avesse fatto, a me basta, per non volerla avere nell'ordinamento giuridico, il fatto che non abbia avuto effetti positivi per la lettura. Per quanto riguarda l'IVA sugli ebook, non so se si abbasseranno i prezzi. Fino a un certo punto questo mi interessa, in realtà. La questione principale di quella vicenda è il fatto che l'IVA sui libri cartacei era già al 4%. Distinguere il libro in base al supporto fisico su cui l'inchiostro è impresso mi sembra che sia, anche dal punto di vista proprio di equità tributaria, equità fiscale, del tutto improprio. Quindi l'abbassamento al 4% ha come primo motivo quello di vedere dove va il mondo. I libri ora sono anche ebook. Il rapporto nazionale sulla lettura dell'AIE dice che il mercato degli ebook nel 2014 è aumentato del 40%, questo vuol dire che si legge anche sull'inchiostro elettronico, quindi un libro è un libro, resta sempre tale. Se poi questo un giorno si tradurrà anche in un abbassamento dei prezzi, tanto meglio. Tanto meglio. Allora, intanto una raffica di messaggi molto favorevoli a Cristina Giussani, il presidente del Sindacato Italiano Librai, ne leggo solo uno. In Italia non si legge per ignoranza, pigrizia, non per il prezzo. Io leggo 4 libri al mese, non guardo più TV, ma ascolto la radio, ma quello che conta soprattutto è che manca il coinvolgimento alla lettura. Molti altri puntano il dito sul fatto che si legge poco, anche perché la scuola dà, secondo molti ascoltatori, poca importanza a un approccio nuovo alla lettura, sia la forma cartacea sia la forma naturalmente dell'ebook. Sono veramente tanti messaggi sulla scuola, eh? Per esempio uno, Paolo da Firenze: a scuola non si insegna a leggere da troppi anni, in più ci sono troppe distrazioni. Tralascio poi le molte considerazioni sui giovani che vanno sui social network, questo io non lo trovo una cosa che spiega perché si legge meno, perché in quel caso è sicuramente vero quello che dite, ma dovrebbe essere ancora più forte l'aumento del consumo degli ebook da questo punto di vista. Il problema è che secondo me noi abbiamo un problema proprio sui libri in qualunque forma, leggiamo troppo poco. Sentiamo un po' di ascoltatori. Claudio dalla provincia di Cuneo, prego Claudio. Buongiorno, buongiorno Giannino, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Io sono un ex lettore. Perché ex? Trovo il prezzo dei libri troppo caro, adesso li guardando, non guardando l'IVA o quello che, cioè 15-20 euro per un libro legato. A me piace prendere il libro, piace sentirlo in mano, sentire l'odore della carta, è troppo caro 20 euro per un libro. Ho provato appunto anche delle forme ebook, ma non mi piacciono proprio. Non le dà soddisfazione? Non mi dà soddisfazione. Però il prezzo alto è, su questo torneremo con Cristina Giussani tra poco. Gianluca da Brescia, prego Gianluca. Sì, pronto, buonasera Oscar. Sicuramente io leggo almeno un paio di libri al mese, più o meno mediamente, e io sono passato all'ebook per il mero motivo economico, nel senso che sicuramente c'è una serie di problemi strutturali in Italia, dalle biblioteche che hanno solo libri molto datati alla scuola che non insegna, perché sicuramente la passione per la lettura mi è arrivata dall'ambiente familiare, non certo da quello scolastico. Però secondo me anche il prezzo è un forte driver per la scelta di un libro piuttosto che di un altro, di un lettore. Io adesso con un ebook posso permettermi di prendere un libro in più o due libri in più, perché mi costano 5, 6, 7 euro, sì, piuttosto che 10, 15, 20 10, 15, euro. 20 o 30 e anche oltre, a dire la verità. Sentiamo Carla da Torino. Buonasera Oscar Giannino, volevo solamente segnalare una cosa. Qui a Torino purtroppo tutte le piccole librerie storiche, l'ultima è stata quella dei Fratelli Fogola in piazza Carlo Felice, da che c'erano da più di 100 anni, come no. Hanno dovuto chiudere, e quello che è più triste è che nessuno di quelle persone che avrebbero potuto fare qualcosa sono intervenuti, assolutamente nessuno. e questo proprio è una grande, grande perdita per la città. Carla, si figuri, io sono conosciuto sullo Stato di Torino, Fogola significa, era una grande biblioteca anche di fondi storici, voglio dire, per chi amava i classici, studi classici, era il punto di riferimento tradizionale, quindi quello ha citato proprio una cosa che per chi conosce Torino è un pezzo di cuore che se n'è andato, per così dire. Cristina Giussani, ma da questo punto di vista le autorità locali, secondo lei, che pure spendono pacchi di centinaia di milioni in teoria per la cultura e spesso in sagra della salamella, non dovrebbero riorientare dei propri fondi e le proprie attività avendo in testa lettura e librai? Guardi, è un tema su cui noi ci stiamo battendo al tavolo interministeriale indetto da Franceschini, cioè che sui territori, comuni eccetera, mettano dei budget molto molto superiori per le biblioteche, tanto per cominciare, perché la biblioteca è un veicolo di lettura, una promozione della lettura fantastico. Ma io sono cresciuta all'estero, so cosa sono le biblioteche negli altri paesi, io vivevo in biblioteca da ragazzina. Cioè, è una cosa, la scuola, sono d'accordissimo con voi. Anch'io, ma perché la famiglia non aveva i soldi per comprarli i libri, quindi figuri, io vivevo nella biblioteca, esatto, municipale di Torino, ecco, ma no, la biblioteca civica. L'altra cosa, i libri in Italia è vero costano tanto, io da libraia mi domando perché un libro di narrativa abbastanza banale deve essere in prima edizione cartonato con cartonato, la sovracoperta. Bravo. Ma ragazzi, ma in Inghilterra, in Francia e in Germania non è così. Pocket. Ecco, secondo me la considerazione poi, di Cristina Giussani. Giannino, un'altra cosa. In italiano ricordiamoci che leggiamo solo noi, per cui le tirature sono, chiaro, piccole, sono molto limitate. E questo incide anche sul prezzo. E ci sono decine di migliaia di titoli ogni anno che leggono pochi, che naturalmente non hanno margine perché non trovano consumatori. Eppure lasciatemi dire, le considerazioni di Serena Sileoni e il mercato che va lasciato indirizzare le libere scelte di ciascuno, a me continuano a sembrare le più giuste. Vedremo il governo che cosa ci riserva il 20 di febbraio. Intanto continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.